Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Eccolo qui, dov'è? Pagina 5. Eccolo qua, pagina 17, pagina 17, pagina. Devo fare lo scioglilingua, no? Come il protagonista di It, perché sennò mi pizzica Giannino. Detto che c'ha due lauree, ma dove le ha prese? Giù a Roma? Vabbè, vale come il perito tecnico a Bergamo, basta. Chiara, vuoi seguire la dieta del cavaliere? Almeno in una cosa vuoi essere berlusconiana nella tua vita? Soprattutto non riuscirei mai a fare tutto quel moto la mattina, non fa per me. Vabbè, Berlusconi è inossidabile. Ora che c'è un figlio, anche gli attacchi politici degli avversari mi sembrano acqua fresca. Sì, dimensione. C'è una bimba di 15 mesi, la educhi subito, se no è finita, eh. Non lo so, io a mia figlia faccio sentire verdi la mattina. Berlusconi c'è in mano un calice di bianco, la Meloni un calice di rosso, l'unico che non brinda è Salvini. Eccomi. Stava criticando il PD in chiesa e è arrivato un intervento dall'altà. Esatto, un intervento divino. Andiamo in chiesa e preghiamo. A pregare, tutti a pregare. Che mi devo alleare con la Lega che oggi prova a rifarsi una virginità togliendo il nome Nord? Hai visto il Maroni che l'ha premiato a New York? Ma sai che mi è sfuggito? Ma l'hai letto i giornali stamattina? Popolo dei già svegli, buongiorno! È arrivata la fine, la notte elettorale, è arrivato il giudizio, ma è ancora sospeso, quindi ancora una notte di dolci sogni e di speranze per i contendenti. E qui con noi l'unico direttore di giornale che non dorme mai, malgrado la maratona notturna, è già sveglio, Alessandro Sallusti, buongiorno! Buongiorno. Allora, subito a caldo, il primo giudizio su questo voto in Sicilia così tanto atteso, e il giornale titola Renzi KO, Silvio c'è. Beh sì, ti devo contraddire, un primo responso c'è già ed è il disastro del PD, della sinistra e del PD, che sono rimasti, questo era nelle previsioni, perché divise ovviamente si resta fuori, ma direi che sono rimasti fuori molto malamente. Insomma, lì c'è un problema di una leadership che unisca, perché quello che dimostra viceversa il centrodestra è che uniti, per davvero o per finta, ma comunque uniti, è l'unico modo per poter battere i grillini. E il patto dell'arancino, un po' rissoso, con qualche calcetto, però tiene. Sì, tiene, ma lì la differenza la fa veramente la persona. Adesso non è questione di dare giudizi, ma Berlusconi è inclusivo, lo è dal 93, ha messo insieme delle cose che in natura non potevano stare insieme, Fini e Bossi, Fini, Bossi, Cicchito e Urbani, cioè delle cose che in natura veramente fanno fatica a stare insieme. Renzi appena può dividere due che non tifano per la stessa squadra, li divide e quindi veramente la vedo complicata per il futuro del centro-sinistra. Bene, abbiamo tante notizie, ma allora immergiamoci nel fritto misto. Ah, Sweet Dreams, Eurythmics. Per me sarebbe una soddisfazione anche personale immensa vedere Giancarlo Cancelleri presidente qui in Sicilia e vederlo scrivere una legge, un'unica legge che racchiude il taglio delle auto blu, l'abolizione dei vitalizi regionali e il dimezzamento degli stipendi. Sapete come la chiameremo questa manovra? Manovra Suca, la chiameremo in questo modo. La manovra Suca. Secondo Di Battista era un comizio affollatissimo, quello con cui hanno chiuso i 5 Stelle. Come giudichi, Alessandro, il loro risultato? Sono comunque il primo partito. No, ha una doppia lettura, sicuramente chapeau per il risultato, un partito unico che sta sopra il 30% è comunque una cosa che merita rispetto, ma è come quella squadra che rischia, almeno se perché questo è sempre obbligo, se l'exit poll è giusto. Se l'exit poll è giusto è come quella squadra che perde la partita di Champions League al 90esimo, insomma l'hai persa, e sulla Sicilia loro ci avevano veramente giocato tutto, Di Battista, Di Maio e Grillo si erano sostanzialmente trasferiti in Sicilia, quindi credo che sia prevalente, se l'exit poll ci risulterà giusto, sia prevalente il fatto che comunque le tassori non vanno da nessuna parte, un po' come la Le Pen in Francia nei suoi anni d'oro. Teniamo anche conto che secondo lo statuto e le leggi siciliane, mettiamo pure che vincano e non hanno la maggioranza, devono allearsi con qualcuno, perché altrimenti sì, sono al governo, ma nel loro Parlamento, la Sicilia è una regione con statuto speciale, non hanno maggioranza, quindi devono andarla a cercare da qualche parte questa benedetta maggioranza. E sentite Vittorio Sgarbi con la solita soavità come si rivolge ai 5 Stelle. La mafia e le fonti rinnovabili sono strettamente collegate. Arrivano i grillini, come la Vispa Teresa. Gli impresentabili, la mafia. La Sicilia deve essere liberata dalla mafia. Certo, se sanno dove trovarla. Loro combattono la mafia con le fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili. Allora, volete confessare? Siete la mafia. È un paradosso ovviamente alla Sgarbi, però lo consegniamo alla storia. Crozza, crocetta sui forestali. In regione avete 5 volte i dipendenti della Lombardia. Voi avete un modo di ragionare del nord. Ma non è un modo di ragionare. Voi ragionate in un modo sbagliato. In che senso? Se in Lombardia assumono un medico in un ospedale, l'eccellenza della bella amministrazione del nord. Se invece in Sicilia assumiamo 24.000 forestali per tagliare una siepe, allora lo scandalo della solita Sicilia sprecata. Ma in Sicilia la siepe cresce molto più in fretta del nord. Ma non giustifica 24.000 forestali. Clamorosi, Crozza e Zalone, Sallusti. No, bravissimi. Teniamo conto che sei in Sicilia. Sul risultato di stanotte aleggia anche lo spettro di è vero che è stato uno dei peggiori governatori, simpatico, tutto quello che vogliamo, ma uno dei peggiori governatori che abbiamo avuto la Sicilia. Pensa, insomma, nessuno che lo abbia intervistato sui giornali, proprio è stato archiviato silenziosamente. Senti, questa è un po' la notizia, non ho da tutti, anche tu, Faraone contro Grasso. Fabrizio Micheli ha avuto il coraggio che non ha avuto il presidente Grasso, cioè quello di candidarsi con il centrosinistra, e poi si sono tirate fuori altre forze politiche della sinistra, si sono sfilati per far danno a Renzi. Ha fatto un po' specie, perché addirittura l'accusa di vigliaccheria in politica non riecheggiava da molto tempo. Beh, si sono sentiti cornuti e mazziati, perché hanno fatto il fio a Grasso e poi Grasso ha annunciato che esce dal PD e si candiderà sostanzialmente contro Renzi, per cui insomma un po' di ragione ce le hanno anche, poteva dirlo subito e non perdevano un mese a fare il filo al Presidente del Senato. Però non è che esista l'obbligo di candidarsi, povero Grasso, con il PD. No, però passare dal farsi corteggiare, dal farsi molestare, è come quello che denuncia 20 anni dopo la molestia. Poteva dire subito di no, perché veramente Renzi e il PD hanno perso un mese, non che sarebbe cambiato molto probabilmente, ma sta di fatto che hanno perso un mese a fare la corte a uno che sapeva già che l'avrebbe tradito. E a proposito di molestie, Miriana Trevisan, come sapete, sugli scudi e sulla ribalta l'attrice, perché accusa Tornatore di molestie. E non c'entra niente quella paura di corteggiare le donne come adesso, insomma, ci vogliono far credere, adesso hanno paura. Io voglio parlare dell'abuso di potere che non può più essere tollerato. E per favore, non banalizzate queste denunce solo perché vengono dal mondo dello spettacolo, come se noi avessimo scelto di fare le puttane. Allora, Miriana Trevisan ha fatto una conferenza stampa alla Camera, invitata da Civati, e Tornatore è stato difeso da Laura Chiatti, Margherita Bui e Claudia Gerini, che definiscono impossibile le sue molestie. Sallusti, a chi credi? Ma io credo che al momento l'unico, diciamo così, reato accertato è che Tornatore abbia fatto un provino a un'attrice di questo livello, un'attricetta. E questo è veramente, mamma, che cattiveria. Lo trovo veramente un reato. Poi il resto lo vedremo tra la faccenda. Insomma, in quel mondo tutto è possibile. Però se dovessi scommettere, scommetterei sulla Gerini. L'Apol Khan deve trovare moglie, intervistato da Maria Latella su Sky, si avvicinano i 40 anni e sentite che tocco di romanticismo. Sono estremamente contento di essere quarantenne, ma devo dire anche un po' spaventato. Bisogna trovare la persona con la quale costruire una famiglia, bisogna trovare la donna giusta. L'infanzia ed i bambini sono un qualcosa che adorerei avere nella mia vita, ma come ho detto prima, devo trovare moglie, dunque... E sentite Berlusconi, mentre c'è l'ottimismo di Elkan, tira fuori il suo vecchio slogan storico, il sole in tasca. È una che cosa mio padre bella. Portava il sole in casa. Quando si apriva la porta e lui entrava, era come se entrasse davvero il sole. E poi io questa cosa qui l'ho un po' sviluppata con i miei collaboratori, raccomandando a ciascuno di tenere il sole in tasca per tirarlo fuori e donarlo agli altri, dando prova di generosità e non di quell'egoismo che purtroppo possiede molti di noi. E sentite come parla di sé, pensando al prossimo governo addirittura. Io sarò lo stesso in campo, anche se non eleggibile, e sarò il regista poi di quel governo che non sarà formato da politici di professione, ma avrà una maggioranza di protagonisti presi dalla società cosiddetta civile. Sallusti, ma riusciranno? Cioè, chi sarà il dominus di questa coalizione? Perché i tre litigano sempre, eh? Beh, il dominus non può che essere lui, proprio perché è l'unico che ha la capacità, la pazienza, proprio quasi un DNA, quello di tenere tutti assieme, cosa che non hanno né Salvini né la Meloni. Quindi se sarà centrodestra sarà Berlusconi il dominus. Non condivido, o meglio, mi lascia perplesso questa ossessione dei tecnici esterni, perché in Italia i tecnici esterni, pensiamo all'ultimo governo Monti, non è che hanno mai dato delle prove di grande capacità, onestamente. E sentiamo alcuni dei gol chiave della domenica. È stata una giornata bellissima, è tutto ancora aperto in corsa perché il Napoli perde 2 punti. Fischia Pisso, Ciciretti, che gol! Il Benevento in vantaggio a Torino, un gol favoloso. Accelera lo spagnolo, di nuovo Peluso su di lui, non li concede di sinistro, ma se lo prende Suso, che segno, che gol! Ruba palla alla Roma, c'è il Sharawi largo che riceve, il movimento di Dzeko, c'è anche Gerson in area di rigore. Gerson, la prima volta con la maglia della Roma, all'11ª partita, Gerson! Ci fermiamo solo per le strade, torniamo con il popolo di Giasvegli e Alessandro Sallusti fra pochi minuti. Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... ...24 mattino. I Giasvegli. E sono già sveglia perché sono vecchia, anzi in questi giorni ho dormito un po' di più perché ho l'influenza e mi sono assorbita moltissimo a televisione. Voglio dare un consiglio ai maschietti, attenti ragazzi, dovete pensare alle quote azzurre perché ormai la televisione è delle mogli. Buongiorno Deleuze, io... non riesco a dormire, quindi insonnia. Però mi piacerebbe che lei entrasse da noi un po' più morbido. Non ci butti giù dal letto con la notiziaccia, col tono... Sia dolce. Volevo dire, ma a voi giornalisti, non vi scoccia che danno questi aumenti ai finti... separati e ai finti residenti. Attenti alle molestie sessuali, ne avete visto cosa è successo? Se un giornalista ha un bel ginocchio, tu limitati a qualche colpo d'occhio, perché se vuoi con mano constatare, sai quante grane ti dovrai beccare. Ciao Nen. E quanto li vogliamo bene i rimatori della mattina. Sallusti, qual è il bioritmo in tempo di pace? Il bioritmo del direttore del giornale, solitamente a che ora si sveglia, dorme, riposa? No, di solito mi sveglio un po' più tardi, ma lo metto presto la sera, onestamente alle 11 sono sicuramente già a letto e mi sveglio, o la sveglio alle 7, bene. Fare una corsetta e poi si inizia. E adesso vorrei che entrassimo nella vicenda che più appassionato, la storia del cognato più famoso d'Italia, i Tugliani. E se dovesse emergere con certezza che Tugliani è il proprietario e che la mia buona fede è stata tradita, non esiterei a lasciare la presidenza della Camera, non per personali responsabilità che non ci sono, bensì perché la mia etica pubblica me lo imporrebbe. Era il 25 settembre 2010, Sallusti. Alla fine la latitanza di Tugliani ha visto il suo ultimo giorno. Ma io me la ricordo bene quella vicenda, perché l'avevamo sollevata noi del giornale alla casa di Monte Carlo. Però devo dire che la latitanza vera è quella di Gianfranco Fini, che non ha mai voluto prendersi la responsabilità di quello che è successo, e credo che goda anche di una certa immunità, perché se, rivedendo tutta la storia, insomma, l'immunità di Fini è andata a pari passo con gli atti politici di Fini, la scissione del partito del PDL, e poi l'agguato alla Camera con la famosa votazione di fiducia che Berlusconi ha superato per un soffio, poi quel fuori onda con i magistrati. Cioè, più Fini si è prestato a far fuori Berlusconi, più ha guadagnato immunità, perché non si spiega come mai sia, non dico a piedi libero, che non auguro a nessuno di andare in galera, ma insomma sia stato trattato così coi guanti e così come se lui non c'entrasse nulla in questa vicenda. Però la cosa curiosa è anche il personaggio di questo ragazzo giovane che bella vita, belle donne, la Ferrari, e ha denunciato lui, il giornalista della Sette che era andato a inseguirlo per conto di Giletti. Questa è la cosa bella, cioè è stato lui andare alla polizia e chiamare rinforzi contro i giornalisti. Un'altra bella parabola. Non penso sia solo quello, perché che dell'esistenza di Tugliani lo sapevano anche prima. Io voglio essere maligno: pochi giorni prima, poche ore prima, Gentiloni era a colloquio con i vertici di quel paese in visita di Stato, quindi probabilmente, come dire, un baratto? Un baratto, dici? Qualche richiesta anche, perché insomma questo è davvero un furfante, arrogante, appunto, ma non solo perché era la Ferrari, beato lui, è arrogante per come si è comportato col suo paese, per come si è comportato con la sua famiglia, insomma è veramente un bulletto di periferia. E io mi auguro e spero che il nostro Ministero degli Esteri, pur non essendoci una estradizione automatica, abbia fatto le giuste pressioni per portare in Italia sotto processo una persona che merita di andare sotto processo. E pare, anzi è sicuro, che ci sia stato un altro naufragio, un altro sbarco sulle coste italiane. Ieri è arrivato uno sbarco improvvisato tra Palmi e Bagnara. Ci sono 8 cadaveri, tra cui 3 bimbi morti. Grazie alla cura Minniti. Questo lo possiamo dire ad alta voce. Era la prima notizia di quello che sta accadendo. Secondo te, Alessandro, la cura Minniti ha risolto o ha congelato il problema degli sbarchi? No, al momento l'ha congelato, ma come succede quando c'è un ferito grave, la prima cosa è stabilizzare, poi dopo si va a cercare di risolvere il problema, ma senza una fase di stabilizzazione passare da zero alla soluzione è tecnicamente impossibile. È vero che ogni giorno piangiamo dei morti, lo dico sinceramente, in mezzo al Mediterraneo, ma è anche vero che ne mangiamo tanti e tanti, tanti meno di quanto ne piangevamo soltanto alcune settimane, alcuni mesi fa. La notizia più curiosa di oggi la terrò nella mitragliata finale, però viene proprio dal tuo giornale, cioè la regala Stefano Zurlo: 59 omicidi, torna in libertà. È un bel segnale per la giustizia italiana, perché 59 omicidi, tornare in libertà è una cosa... Sì, parliamo di uno dei più efferati criminali che per un approccio, una visione burocratica e anche un'incapacità a questo punto. Schettini è un boss. Di persona però ne ha eseguiti solo 37, gli altri gli ordinati. per quegli strani meccanismi rischierebbe. Io spero che questo allarme che oggi lanciamo serva, che insomma che stamattina il ministro della giustizia dia un occhio a quello che sta succedendo. Vedi, Zurlo c'ha sempre l'occhio attento sulle carceri, sulla giustizia, sulle sentenze. Eccolo qui, e vi dico qualcosa di più. Il boss della Camorra, Raffaele Cuto, dello sbarco, figlio Roberto, ucciso in provincia di Parese da Antonio Schettini. Nel 90 ha ammazzato il figlio di Raffaele Cutolo, e insomma è un personaggio incredibile. Ma come mai si arriva a queste liberazioni? Beh, si arriva per l'applicazione stupida delle leggi. Io sono favorevole ai benefici ai carcerati. Assolutamente sì. Senza l'assolutamente. Assolutamente se applicati con... Io lo chiamo il semplice buonsenso. Ora, una persona che ha ucciso 38 persone non può avere dei benefici, o comunque non in una misura che appare ed è assolutamente incomprensibile e ingiustificabile. Applicare la burocrazia alla giustizia è pericoloso quanto non applicare la giustizia. Grazie Alessandro Sallusti, lo salutiamo e lo ringraziamo, e noi ci vediamo per la rassegna stampa con gli aggiornamenti in diretta, perché mentre questa mattina procede ci saranno lo scrutinio della Sicilia e di Ostia. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.